Terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary di Gustave Flaubert. Una notte, saranno state le 11, vennero svegliati dallo scalpitio di un cavallo che si fermò proprio davanti alla loro porta. La serva aprì la finestra dell'abbaino e parlamentò per un poco con un uomo laggiù nella strada. Veniva a cercare il medico, aveva una lettera per lui. La lettera, chiusa con un piccolo sigillo di ceralacca turchina, supplicava il signor Bovary di accorrere alla fattoria dei Bertaux. C'era da rimettere a posto una gamba rotta. Tutto intabarrato nel suo mantello, Charles s'avviò verso i Bertaux. Ancora intorpidito dal tepore del sonno, si lasciava cullare dal trotto tranquillo della sua cavalcatura. Passando da Vassonville, vide sull'orlo d'un fosso un ragazzo. Era seduto tra l'erba, aspettava lui. «Siete il medico?» domandò il ragazzo. Alla risposta affermativa, prese in mano gli zoccoli e cominciò a correre davanti a Charles. L'ufficiale sanitario apprese strada facendo, dalla sua guida, che il signor Rouault doveva essere uno dei più facoltosi agricoltori della zona. S'era rotto una gamba la sera prima, rincasando dall'aver festeggiato l'Epifania con un vicino. Era vedovo da 2 anni, con lui viveva solo la figlia che l'aiutava a mandare avanti la fattoria. La fattoria aveva un bell'aspetto. Il cortile era in salita, gli alberi vi erano piantati simmetricamente. Il gaio schiamazzo d'un branco di oche risuonava presso lo stagno. Una giovane donna in abito di lana turchina, guarnito di volanti, venne a ricevere Charles sulla soglia della casa. Lo fece entrare in cucina, ove fiammeggiava un gran fuoco. La colazione per gli uomini della fattoria bolliva in tante piccole pentole di varia forma. Panni umidi s'asciugavano all'interno del camino. La paletta, le molle, il becco del soffietto, tutti di proporzioni smisurate, luccicavano come acciaio pulito e lungo i muri era bene in mostra un'abbondante batteria da cucina in cui la chiara vampa del focolare si rifletteva volubilmente. Al riverbero si aggiungeva ormai la prima luce del giorno che penetrava attraverso le finestre. Charles salì al primo piano per vedere il suo paziente. Lo trovò a letto. Era in un bagno di sudore sotto le coperte e aveva scagliato lontano il berretto da notte. Era un ometto grassoccio, sui 50 anni, con la pelle bianca, gli occhi chiari, calvo sulla sommità del cranio, portava le buccole agli orecchi. Su una sedia vicino al letto si teneva una gran caraffa di acquavite cui attingeva di tanto in tanto per farsi animo. Ma appena vide il medico smarrì tutta la sua eccitazione. Invece di continuare a bestemmiare come faceva da quasi 12 ore, prese a gemere fievolmente. La frattura era semplice, non si potevano temere complicazioni di nessuna specie. Charles non avrebbe osato augurarsene una più facile. Allora, ricordando come si comportavano i suoi maestri al capezzale degli infortunati, confortò il paziente con uno sfoggio di motti di spirito, carezze che sapevano di chirurgo come l'olio in cui si ungono i bisturi. Aveva bisogno di stecche. Gli andarono a prendere un mucchietto di assicelle nella rimessa. Charles ne scelse una, la fece a pezzi, la limò con una scheggia di vetro, mentre la serva stracciava un lenzuolo per ricavarne delle bende e la signorina Emma pensava a cucire qualche cuscinetto. Per la verità, tardò un poco a trovare l'astuccio dal lavoro. Il padre si spazientì. Lei non replicò, ma mentre cuciva si punse le dita e se le portò immediatamente alle labbra per succhiare il sangue. Charles restò impressionato dal nitore di quelle unghie. Erano luccicanti, appuntite, più levigate degli avori di Dieppe, tagliate a mandorla. La mano, tuttavia, non era bella nel suo complesso, forse non abbastanza candida, piuttosto secca alle falangi. Era anche troppo lunga e mancava di mollezza nei contorni. Di veramente bello, la signorina Emma aveva invece gli occhi. sebbene fossero grigi, parevano neri a causa delle lunghe ciglia. Il loro sguardo ti colpiva francamente con candida arditezza. Terminata la fasciatura, il medico venne invitato dallo stesso signor Rouault a mandar giù un boccone prima di andarsene. Charles scese nella sala al pian terreno. Due coperti con tazze d'argento erano già pronti su una piccola tavola, accanto a un gran letto a baldacchino coperto da una cotonina su cui erano stampate figurine moresche. Per terra, negli angoli, erano ammucchiati, ritti, ordinati, sacchi e sacchi di grano, quelli che non erano entrati nel granaio cui si accedeva per mezzo di tre scalini di pietra. A ornamento della sala, al centro della parete, la cui tintura verde soccombeva al salnitro, era attaccata a un chiodo una testa di Minerva, schizzata in nero e incorniciata in oro, con sotto una dedica in caratteri gotici. «Al mio caro papà». Dapprima parlarono dell'infortunato, poi del tempo che faceva, del gran freddo, dei lupi che s'aggiravano per i campi la notte. Lei non si trovava a proprio agio in campagna. Adesso, soprattutto che le si era riversata interamente sulle spalle la responsabilità di mandare avanti la fattoria. La sala non era riscaldata e lei batteva un poco i denti mangiando, scopriva così le labbra carnose che era solita mordicchiare nei momenti di silenzio. Aveva le guance rosee, e come un uomo portava l'occhialino di tartaruga infilato tra due bottoni del corpetto. Quando Charles, dopo essere salito a salutare papà Rouault, tornò in quella sala, ormai pronto alla partenza, trovò la signorina Emma in piedi, la fronte contro i vetri della finestra. Guardava il giardino, ove i sostegni dei fagioli erano stati abbattuti dal vento. Lei si girò. «Cercate qualcosa?» gli chiese. «Il mio frustino, scusate», disse lui. Prese a guardare sul letto, dietro le porte, sotto le sedie, Il frustino era finito per terra, tra sacchi e parete. Appena lo vide, la signorina Emma si chinò sui sacchi di grano. Charles, per cortesia, si spinse avanti e, mentre tendeva il braccio nello stesso movimento, sentì il proprio petto sfiorare la schiena della giovane donna. Lei si tirò su in fretta, tutta rossa, lo guardò da sopra una spalla e intanto gli porgeva il nerbo di bue. Invece di tornare ai Bertaux 3 giorni dopo, come aveva promesso, Charles riapparve immediatamente, il giorno dopo stesso. Poi 2 volte alla settimana, regolarmente, senza contare le visite improvvise che faceva ogni tanto, come per caso. Tutto, del resto, andò bene. La guarigione sopravvenne secondo le regole e quando in capo a un 46 giorni si vide papà Rouault fare i primi passi da solo in quella che lui definiva la sua bicocca, il signor Bovary cominciò a venir considerato un uomo di talento. Il suo paziente sosteneva che non sarebbe stato curato meglio neanche dai primi medici di Yvetot o di Rouen. Quanto a Charles, non provò neppure a chiedersi perché gli piacesse tanto andare in visita ai Bertaux. Se ci avesse riflettuto, senza dubbio, avrebbe attribuito tutto quello zelo alla gravità del caso, o magari al guadagno che sperava di ricavarne. Ma era proprio questo che faceva delle sue escursioni alla fattoria un'incantevole eccezione tra le povere abitudini della sua esistenza? Tutto era di suo gusto. Il granaio e le stalle. Papà Rouault che gli stringeva forte la mano, chiamandolo Salvatore. Gli zoccoletti della signorina Emma che echeggiavano sulle mattonelle della cucina. E i tacchi che la facevano più alta. E quando lei gli camminava davanti, le suole di legno che, rialzandosi rapide, sbattevano con un rumore secco contro il cuoio. Lo riaccompagnava sempre sino al primo scalino dell'ingresso e sinché non gli riconducevano il suo cavallo restava là. S'erano già detti addio, non parlavano più. L'aria libera la avvolgeva, le scompigliava i ricciolini capricciosi sulla nuca, le agitava contro il fianco le fettucce del grembiule attorcigliantisi come banderuole. Una volta, ed era ormai tempo di sgelo, e le cortecce degli alberi lacrimavano nel cortile, la neve fondeva sui tetti. Lei stava sulla soglia. Si ritirò per cercare l'ombrello. Tornò ad aprirlo. L'ombrello, di seta cangiante, penetrato dal sole, illuminava di mobili riflessi la diafana pelle della sua faccia. Di là sotto, lei sorrideva al tepore dell'aria. Si sentivano a una le gocce cadere sulla seta tesa. Thank you. I primi tempi in cui Charles frequentava i Bertaux, la moglie non mancava di chiedere informazioni sullo stato del paziente. Aveva addirittura scelto per il signor Rouault una bella pagina bianca sul libro che teneva a partita doppia. Ma quando apprese che c'era di mezzo anche una figlia, cercò di saperne di più e seppe che la signorina Rouault, allevata in convento presso le Orsoline, aveva ricevuto quella che viene definita una buona educazione. Aveva studiato, insomma, danza, geografia, disegno, ricamo e persino un poco di pianoforte. Fu il colmo. L'istinto la odiò. Dapprima si sfogò a forza di allusioni. Charles non le afferrò minimamente. Lei allora passò alle riflessioni apparentemente casuali. Charles lasciò correre, temendo lo scoppio della bufera. E allora fu la volta delle apostrofi brutali, alle quali lui non sapeva proprio come rispondere. «Perché mai continui a tornare ai Bertaux dal momento che il signor Rouault è già guarito e quelli non accennano a pagare? Io lo so perché da quelle parti c'è una persona, sì signore, una persona capace di far conversazione, una ricamatrice di parole, un bello spirito. È questo che ti ci vuole, tu hai bisogno di signorine di città». Stanco di quei rimproveri, Charles smise di tornare ai Bertaux. E poi capitò che all'inizio della primavera un notaio di Ingouville, depositario delle sostanze della vedova Dubuc, prendesse il largo con il favor della marea, portando con sé tutti i fondi del suo studio. Eloise, è vero, possedeva ancora, oltre a una caratura di bastimento valutata 6.000 franchi, la sua casa di Rue Saint-François. Eppure, di tutta quella gran fortuna, a proposito della quale si era fatto tanto fracasso, sino ad allora si erano visti appena qualche mobile e qualche straccetto. Si impose la necessità di mettere le cose in chiaro. Così venne fuori che la casa di Dieppe era minata dalle ipoteche sin nelle fondamenta, che Dio solo poteva sapere in quanto consistesse la somma depositata presso il notaio, che la caratura del bastimento non superava i 1.000 scudi. Dunque aveva mentito la brava donna. Nella sua esasperazione, il vecchio Bovary spaccò una sedia per terra e accusò la moglie d'aver fatto la rovina del figlio, apparigliandolo a una simile rozza, i cui finimenti non valevano neppure la pelle. Bovary, padre e madre, si precipitarono a Tosto. Ci furono le grandi spiegazioni. Ci furono le grandi scenate. Eloise si gettò in lacrime tra le braccia del marito, scongiurandolo di difenderla dai genitori. Charles allora si provò a parlare in favore della moglie. Bovary padre e madre si infuriarono, sgombrarono il campo. Ma il colpo totale era stato ormai inferto. Una settimana dopo, mentre stendeva la biancheria in cortile, Eloise ebbe uno sbocco di sangue. Passò appena un giorno e, mentre Charles le girava le spalle per chiudere le tende della finestra, lei disse «Ah, Dio mio!» e mise un gran sospiro e perse la conoscenza. Era morta. Che stupore! Quando tutto fu finito al cimitero, Charles rincasò. Da basso non trovò nessuno. Salì al primo piano, in camera. Allora vide la veste di lei ancora appesa in fondo all'alcova. S'appoggiò al secretaire e restò lì sino a sera, smarrito in una dolorosa fantasticheria. Lo aveva amato, lei, dopo tutto. Thank you. Una mattina fece la sua apparizione Papà Rouault. Veniva a pagare Charles per la gamba rappezzata. 75 franchi in pezzi da due più una tacchina. Era al corrente della disgrazia. Consolò il medico come poté. «Ah, lo so di cosa si tratta», continuava a ripetere battendogli sulle spalle. «È toccata anche a me. Quando ho perduto la mia povera buon'anima, me ne andavo per i campi per star proprio solo. Mi buttavo sotto un albero, piangevo, invocavo Dio. Avrei voluto crepare, ecco quello che avrei voluto. Ebbene, piano piano, un giorno dopo l'altro, una primavera dietro un inverno, un autunno dietro un'estate, mi è passata, goccia a goccia, briciola a briciola. La malattia se n'è andata, è partita. Voglio dire, s'è nascosta, perché qualcosa al fondo resta sempre, come... facciamo come un peso qui nel petto. Ma dato che è destino di tutti, non ci si deve lasciar rovinare. Non è giusto voler morire perché qualcuno è morto. Scuotetevi, signor Bovary. La malattia passerà. Perché non venite a trovarci? Charles seguì quel consiglio. Si rifece vivo ai Bertaux. Gli parve che non fosse mutato nulla, tutto come 5 mesi prima. I peri erano già in fiore e il bravo Rouault, adesso bene in piedi, andava e veniva animando maggiormente la fattoria. Un giorno arrivò ai Bertaux verso 3:00. Tutti erano nei campi. Entrò nella cucina. Tra finestra e focolare Emma era intenta a cucire. Non portava scialle né altro del genere. Piccole gocce di sudore erano visibili sulle sue spalle nude. Secondo gli usi della campagna, lei gli chiese se volesse bere qualcosa. Andò a cercare nell'armadio una bottiglia di curaçao. Si procurò 2 bicchierini, ne riempì uno sino all'orlo, nell'altro versò non più d'un dito di liquore, poi se lo portò alle labbra, accennando a un brindisi. Dato che era quasi vuoto, lei si piegava indietro per bere. La testa arrovesciata, le labbra sporgenti, il collo teso. Ridacchiava di non sentir nulla, mentre con la punta della lingua, guizzante tra i denti sottili, leccava a piccoli colpi il fondo del bicchierino. Tornò a sedersi e riprese in mano il lavoro. Lei si lamentava di provare, da quando era cominciata la buona stagione, stordimenti improvvisi. Domandò se le sarebbero potuti essere utili i bagni di mare. Poi attaccò a parlare del suo convento. Charles finì per parlare del suo collegio. Adesso riuscivano a fare conversazione. Lei lo invitò a salire nella sua camera. Gli mostrò i vecchi albi di musica, i libretti ricevuti in premio e le corone di foglie di quercia abbandonate in fondo a un armadio. Secondo quello che diceva, la sua voce suonava chiara, acuta, o, velandosi d'improvviso languore, si trascinava in modulazioni smorenti, quasi inimpercettibili bisbigli, quando pareva rivolgersi a sé sola. Ora spalancava allegramente gli occhi ingenui, ora restava con le palpebre calate a metà, lo sguardo affogato di tedio, il pensiero altrove. La sera, rincasando, Charles si ripeté una a una le frasi della giovane donna, cercando di ricordarle esattamente, di completarne il senso per poter ricostruire la parte di vita di lei che precedeva il loro incontro. Ma non riuscì mai a intravederla diversa nella sua mente da come gli era apparsa la prima volta o da come gli era apparsa adesso, al momento di salutarsi. Poi si chiese cosa sarebbe diventata se si fosse sposata. E con chi? Ahimè, Papà Rouault era molto ricco e lei era talmente bella. Ma la faccia di Emma continuava a proporsi ai suoi occhi. Qualcosa di monotono, come il ronzio di una trottola, ripeteva ai suoi orecchi: «Se tu ti sposassi, se tu ti sposassi». Dicendosi che in fin dei conti non rischiava nulla,